Piano. Di Enrico Ruggeri. Quando si pratica uno sport, una delle cose più importanti che ci si aspetta è che l'atleta che lo pratica conosca bene le regole dello sport che sta facendo. E i giochi di squadra, per esempio, hanno tantissime regole e magari non tutti gli appassionati le conoscono proprio nei dettagli, e poi ci avventuriamo tutti a fare gli arbitri, i direttori tecnici, gli allenatori, ma poi ci sono gli atleti e naturalmente tra gli atleti ci sono bravissimi, bravi, bravini, scarsi, eccetera eccetera. Insomma, ci sono anche atleti che sbagliano, che magari tirano in maniera scomposta, sparano il pallone alle stelle, parlo di calcio, mancano la palla. E poi ci sono, negli anni in cui il calcio sta estendendo la sua sfera di interesse nel mondo, arrivano anche nazioni neofite nelle quali ovviamente c'è ancora più il rischio che ci siano errori madornali che possono scatenare la risata. Ecco, oggi raccontiamo la storia di un giocatore che ha vissuto uno di questi momenti, l'errore clamoroso, la madre di tutti gli errori, un errore che è stato esilarante per il pubblico e umiliante per lui, però un errore che nasconde una terribile e complessa situazione personale che nessuno del pubblico conosceva, perché la gente parla nella vita e spesso non sa neanche di cosa parla. La situazione dura da sopportare che è rimasta nascosta per tanti anni. Bene, oggi raccontiamo la storia di Joseph Mepu e della sua punizione al contrario. Coroma! Voleva volare, non c'è riuscito. L'algerino, Zerouki. Sì, questo è un contributo celeberrimo, no? La Jalapas in Mai dire gol, che evidenziava gli errori clamorosi, e qui si stava parlando di Mai dire mondiali. Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci in qualche modo hanno inventato questo modo di sdrammatizzare, di commentare il calcio, di togliergli quella polverosa serietà, insomma, che a volte lo rende cattedratico, pesante. E in questa trasmissione loro sottolineavano gli svarioni, i lisci o dei comportamenti che non avevano senso e che magari uno non si aspetta da un calciatore professionista. E tocchiamoci nel passato. È una cosa bella rivedere questa squadra del non dimenticato campionato mondiale del 74. È lo Zaire. Ma attenzione all'episodio che ce la fa ricordare volentieri. Punizione per il Brasile. Vedete tutti i giocatori dello Zaire schierati bene in barriera, pronti. L'arbitro sta per fischiare. Attenzione. Ha fischiato e parte Mepu come un pazzo. È partito, non si sa bene per quale motivo. Probabilmente pensava che tutti i giocatori dello Zaire dovessero essere lì in barriera e tutti dovessero correre poi all'impazzata verso il pallone. La 24 ore di Le Mans, ricordiamo. Non è possibile che ha pensato che era una punizione a loro favore. Non credo, non credo. Ma perché si è messo in barriera allora? Ma questo perché non si sono capiti, ma lui aveva capito. Guarda, ecco. Stufo. Il bello è che lui fa segno. Si indica l'orecchio e dice: ma io ho sentito un fischio, quindi ho fatto bene a calciare. Lui ha detto nella sua lingua, ha detto cusa che entri mi. Esatto, però lo hanno ammonito, sono cose tristi. E lui ancora oggi si chiede il perché. Perché? E qui c'è anche Teo Teocoli che sta commentando. 22 giugno 74, partita Brasile-Zaire, siamo ai mondiali di Germania, il Brasile sta vincendo 3-0, la partita sta finendo, c'è una punizione per il Brasile, sulla palla ci va Rivellino, che era uno con un tiro potentissimo, e in barriera ci sono i giocatori dello Zaire, sono tesi, poi a gioco fermo l'arbitro fischia e un giocatore della difesa scatta, corre verso il pallone, lo tira lontano, fortissimo, sfiora la testa di Rivellino, è un gesto senza senso, il pubblico ride. I giocatori del Brasile si guardano, sono attoniti, ridono tra loro, è una scena incomprensibile perfino in un campo dell'oratorio. Il giocatore che ha appena tirato quel calcio si chiama Joseph Mepu Lunga e gioca nella nazionale dello Zaire, che debuttava ai mondiali nel ruolo di terzino. quindi dovrebbe essere un giocatore attento, preciso, e invece compie questo gesto che a tutti sembra assolutamente sconclusionato, sconsiderato. Poi si gira verso l'arbitro, allarga le braccia come a dire: ma che cosa ho sbagliato? L'arbitro ovviamente estrae il cartellino giallo, lo ammonisce e lui a questo punto desiste dalle proteste, allarga le braccia in segno di resa, fa un inchino, torna in barriera, il suo volto è teso, è contratto. Insomma, se uno lo guarda attentamente, se uno guarda questa scena non con superficialità, capisce che lui non è presente in campo col pensiero, sembra lì per caso. La gente appunto superficialmente ride, i giornalisti ridono, il mondo ride, ma c'è dietro dell'altro. Lo Zaire che partecipa al mondiale per la prima volta, il livello tecnico del calcio africano è ancora inferiore a quello europeo. D'altra parte, insomma, io dal 70 che sento dire entro 10 anni il calcio africano dominerà il mondo, e poi invece non succede mai, sono sempre lì per esplodere, ma non riescono a imporsi. Insomma, ci sono tantissime ragioni delle quali ho parlato spesso anche con calciatori che hanno allenato in Africa. All'interno di quel mondiale c'è lo Zaire, considerato insomma una squadra materasso, quella che vorresti sempre avere nel tuo girone, e lo sa bene la Jugoslavia che pochi giorni prima con lo Zaire era andata a segno 9 volte, uno dei peggiori score nella storia dei mondiali. Però a volte l'apparenza inganna, poi vi spiegherò perché dietro a queste partite, dietro a questa valanga di gol e dietro poi al gesto particolare, stranissimo del nostro protagonista, c'è molto di più, c'è il dramma di una nazione intera, c'è una minaccia di morte, c'è un terrore che si trasforma in atto di ingenuità, e c'è il potere di un dittatore che si era arrogato il diritto di vita e di morte sul suo popolo. Il dittatore era il terribile Mobutu. Il falco e il gabbiano. Nel dopoguerra molti paesi dell'Africa cominciano a inseguire e a raggiungere la loro indipendenza. Nel Congo belga questo processo arriva nel 1960, il Belgio rinuncia alla sovranità coloniale, evita una guerra civile, però a questo punto arrivano le grandi potenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che cercano di fare rientrare nella loro sfera di influenza il Congo, che è uno stato particolare. Siamo in Africa centrale, ci sono le miniere dei diamanti, di rame, di cobalto, quindi bisogna cercare di mettere un presidente gradito alle grandi potenze occidentali, o comunque le grandi potenze, diciamo, del capitalismo storico. Così il presidente Lumumba viene destituito, arrestato e poi giustiziato. Il suo oppositore è Mobutu Sese Seko, e probabilmente appoggiato, come quasi tutti i capi di Stato in Africa di quegli anni, appoggiato dalla CIA e dal governo belga. Catturato mentre tentava di fuggire, Patrice Lumumba, ex primo ministro del Congo, testimonia con i polsi legati come è destinato a finire il potere ottenuto con la violenza. La vita dell'ex primo ministro congolese è legata ad un filo più sottile della corda che ora gli stringe i polsi. Il colonnello Mobutu è l'uomo forte del Congo, almeno sino ad oggi. Lumumba conserva ancora la sua fierezza e il suo odio per gli avversari è certo inestinguibile. Gli stessi soldati che ieri lo acclamavano, oggi lo insultano. Lo hanno deriso, ammanettato, e vogliono fargli ingoiare il suo ultimo decreto. E vedete con quanta ingenuità l'Istituto Luce commenta queste azioni, come se in quel momento fosse stato deposto un tiranno e fosse arrivato un illuminato. Di illuminato c'è solo il nome, il Congo diventa Repubblica Democratica del Congo, poi in realtà Mobutu diventa un dittatore ben peggiore di Lumumba, organizza il suo potere sulla corruzione, sull'arricchimento personale, si appropria di tutti i proventi derivanti dalle principali miniere del paese. A me fa sempre molta tenerezza vedere questi colpi di Stato con la gente che corre per strada, spara in aria, festeggia e non si rende conto che loro rimarranno sempre sotto e qualcuno starà sopra di loro, li sfrutterà, li userà. E intanto nell'indignazione mondiale c'è un popolo che sta morendo di fame mentre pochi eletti si stanno dividendo il grosso della torta. Per aumentare la sua notorietà all'estero, Mobutu fa quello che fanno tutti i dittatori in cerca di consensi: incentiva lo sport, rafforza la nazionale di calcio che deve diventare un simbolo del paese. Nel 1971 il Congo cambia nome, diventa Zaire. E così tra il 68 e il 74 il calcio congolese vive un periodo di splendore, vince la Coppa d'Africa del 68, l'anno dopo umilia lo Zambia vincendo una partita per 10-1 e i giocatori della nazionale sono esperti, sono veloci, sono forti fisicamente e poi hanno una marcia in più che è data dal fatto che molti di loro giocano nel campionato belga, quindi hanno più esperienza e questo fa la differenza. Tra i giocatori della nazionale c'è anche il nostro protagonista Joseph Mwepu, che invece in Europa non ha mai giocato. Lui ha esordito nel 69 nel Engelbert di Lumumbashi, con cui ha vinto una Coppa dei Campioni d'Africa. È un terzino solido, coriaceo, si guadagna il posto in nazionale, è molto orgoglioso di essere stato scelto e convinto, come tutti i congolesi in quegli anni, che Mobutu sia un presidente giusto, illuminato, perfetto per la rinascita del suo paese. Si sbaglieranno di grosso. Mobutu era come un padre per noi. Ci veniva a trovare mentre facevamo gli allenamenti. Ci prometteva premi e ricompense. Diceva che eravamo l'orgoglio del paese. Quando ci qualificammo per la finale, regalò a ognuno di noi una casa e un'auto. L'allenatore della nazionale è un macedone, un nomade, Blagoja Vidinic, ha allenato la Jugoslavia per 8 anni, poi è andato in Africa, ha portato la sua esperienza nel calcio africano, ha allenato prima il Marocco al mondiale del 70 e poi ha preso per mano lo Zaire, ha vinto la Coppa d'Africa e poi ha centrato la qualificazione per i mondiali del 74. Arrivano le convocazioni nella lista dei partenti per la Germania, c'è anche lui, Mwepu. Lo Zaire arriva dopo il Marocco, nel 70 si era qualificato il Marocco ed era riuscito a strappare un pareggio in 3 partite senza passare il turno. 4 anni dopo ci sono loro, i leopardi dello Zaire, così li chiamano, devono difendere l'orgoglio di un intero continente. Vogliono essere la sorpresa del loro girone e le cose partono male, ma non malissimo, perché il 14 giugno del 74 lo Zaire debutta contro la Scozia. Se non siamo capaci di battere lo Zaire, possiamo anche fare i bagagli, così aveva detto il loro allenatore. E invece abbiamo combattuto quasi ad armi pari e gli abbiamo messo paura. Queste erano le parole di Mwepu in una intervista recente. E sì, perché la partita finisce 2-0 per la Scozia e la Scozia non va oltre i 2 gol e pagherà questo, e non qualificandosi al turno successivo proprio per la differenza reti. Insomma, lo Zaire in quella partita si dimostra un avversario forte più di quanto non ci si aspettasse. Sono rinfrancati i giocatori giallo-verdi da questo risultato, cominciano addirittura a illudersi di poter raggranellare dei punti in qualche partita. Insomma, stanno sognando un futuro pieno di gloria e magari anche di soldi. Ero molto orgoglioso di aver ben rappresentato il mio paese e tutta l'Africa alla Coppa del Mondo. Ma noi tutti avevamo erroneamente creduto che saremmo ritornati dalla Germania come dei milionari. La partita successiva si gioca contro la Jugoslavia, è una squadra che Vidinic conosce bene, addirittura si pensa di poter affrontare la partita con una sicurezza maggiore, e in quella partita invece succede qualcosa di molto strano. 7 minuti per prendere le misure, per fare il primo gol, e alla fine il risultato è 9-0, la squadra e i giocatori sono distrutti, non temono l'allenatore, hanno paura del loro presidente Mobutu, il cui atteggiamento non è più paterno. Quel 9-0 nasconde dei retroscena. Il falco e il gabbiano. stiamo raccontando la storia di Joseph Mwepu, il calciatore africano che nel 74 ha indossato la maglia da titolare della nazionale dello Zaire ai mondiali di Germania 74, un ragazzo che fino a quel momento era un terzino con una buona carriera in ascesa e che poi si renderà invece attore di un gesto che farà parlare, sorridere anche tutto il mondo del calcio. Ma in questo momento l'abbiamo lasciato con la responsabilità di indossare la casacca giallo-verde dei leopardi africani ai mondiali. Lo Zaire intanto in mano a Mobutu, che arrivato al potere spinto da afflati di democrazia, almeno così è dichiarando, poi invece aveva abolito ogni attività parlamentare, aveva accentrato su di sé tutti i poteri e aveva fatto ovviamente piazza pulita di tutti gli oppositori. E come in tutte le dittature bisogna eccellere in qualcosa nello sport per potersi conquistare dei consensi a livello internazionale, anche per coprire le proprie atrocità. E quindi Mobutu ha puntato tutto sulla sua nazionale, che è ai mondiali di Germania nel 74. Non vuole che la nazionale sfiguri sotto gli occhi della stampa di tutto il mondo. Però il 18 giugno nel 1974 a Gelsenkirchen la Jugoslavia ha travolto lo Zaire 9-0. Mwepu racconta in un'intervista alla BBC la sua sconfitta, la sconfitta della sua squadra, che è anche la conseguenza però di un'aspettativa delusa. Qualche ora prima della partita c'era stato detto che, contrariamente a quanto c'era stato assicurato, nessuno di noi sarebbe stato pagato. A quel punto noi ci rifiutammo di scendere in campo. Poi ci furono minacce. Ci dissero che se non avessimo giocato ci avrebbero mandato in prigione. Così siamo scesi in campo, ma abbiamo sabotato la partita. Un po' come uno sciopero. Eh sì, dietro a quel 9-0 c'è un sabotaggio, una protesta comunque di giocatori totalmente demotivati che vedevano in questi mondiali l'occasione per la loro grande rivincita e invece sono stati fregati. I $45,000 a testa che avrebbero dovuto ricevere sono stati fatti sparire dai delegati politici al seguito della squadra. La squadra deve scendere in campo perché hanno paura per la loro incolumità, però sostanzialmente quella partita non la giocano. Ovviamente è compromesso il passaggio al turno, 0 punti in 2 partite, con la terza avversaria del girone da affrontare che è il Brasile, campione del mondo in carica. Allo Zaire peraltro manca uno dei suoi punti di forza, la punta titolare Mulamba Ndiaye era stato squalificato perché nella partita contro la Jugoslavia aveva dato un calcio all'arbitro colombiano e in realtà il fallo era stato commesso da Mwepu. L'arbitro si era confuso, aveva espulso proprio Ndiaye, aveva tolto allo Zaire l'unico giocatore che poteva in qualche modo forse impensierire un po' i brasiliani. Il Brasile segna 3 volte, siamo al minuto 85. Punizione per il Brasile, il Rivelino è sulla palla e a quel punto c'è l'incomprensibile gesto di Joseph Mwepu che calcia lontano il pallone di un fallo a suo sfavore, prende la palla prima di Rivelino e fa ridere tutto il mondo. Aspettate un attimo, l'arbitro ha fischiato ma i brasiliani non hanno ancora tirato, quindi posso calciarla via. Ehi, che grande idea! Non posso credere che nessuno ci abbia mai pensato prima. Entrerò nella storia. Questa sarà ricordata come la mossa di Ilunga Mwepu. Sarò rispettato da tutti. E questo è uno sketch di un programma famosissimo in Inghilterra, Fantasy Football League, una specie di, mai dire, gol della TV inglese. Mwepu sta al gioco e sta raccontando in modo ironico i pensieri che aveva avuto in quel momento. Accetta di stare allo scherzo, si lascia prendere in giro, sono passati tanti anni, siamo nel 98, 24 anni dopo quella partita, la partita che è per tutti è ancora quella della punizione al contrario, uno dei momenti più strani e divertenti della storia del calcio. Lui è passato come un giocatore che non conosce le regole, è passato come un irresponsabile, come uno sconsiderato che ha avvalorato la tesi di un calcio africano ancora immaturo per i grandi palcoscenici. Dietro a quel gesto invece si nasconde un vero e proprio colpo d'ala. Nel 1996, dopo anni di guerra civile, Mobutu è stato finalmente destituito, è scappato in Marocco ed è morto un anno dopo di cancro. E certo, naturalmente per lo Zaire i problemi non si sono risolti, ci saranno ancora anni di guerra civile, di stragi, di guerre tribali, però comunque morto il grande dittatore, l'uomo che si diceva incutesse un terrore terribile a chiunque incrociasse il suo sguardo, si comincia a trovare il coraggio di raccontare degli episodi che prima venivano tenuti nascosti. Il 2002 per Joseph Muepu è un anno importante perché lui trova il coraggio di raccontare alcuni retroscena di quel maledetto mondiale, quantomeno deve e vuole raccontare la sua verità, parlando anche di quel bizzarro calcio tirato a gioco fermo che l'ha reso ridicolo di fronte al mondo intero. Insomma, lui ci racconta che dopo la sconfitta per 9-0 contro la Jugoslavia, nell'hotel dove alloggia la squadra si presentano le guardie presidenziali di Mobutu, hanno un messaggio molto chiaro da parte del loro presidente. Mobutu inviò le guardie presidenziali per minacciarci. Chiusero fuori dall'hotel tutti i giornalisti e ci dissero che se avessimo perso con più di 3 gol di scarto contro il Brasile, nessuno sarebbe stato in grado di tornare a casa. Nessuno tornerà vivo a casa, questo è il senso della minaccia delle guardie presidenziali di Mobutu. Questo è quello che ci racconta Muefu, ci racconta di questo fardello pesantissimo sulle spalle che la nazionale dello Zaire ha. Deve scendere in campo contro i brasiliani e non deve perdere con più di 3 gol di scarto. I volti tesi dei giocatori, insomma, non sono solo dovuti alla tensione di giocare contro i campionissimi del Brasile. Sui loro volti c'è la paura di chissà che sta per passare dei guai molto seri, addirittura forse sta combattendo per la sua sopravvivenza. Insomma, la partita si trasforma in una roulette russa e una pistola è puntata su ognuna delle 11 teste dei giocatori dello Zaire. E quando Rivellino segna il terzo gol, mancano 10 minuti alla fine, 10 minuti nei quali una squadra come il Brasile può fare 1, 2, 3 gol allo Zaire. E c'è una punizione, Rivellino è uno dei più grandi specialisti dell'epoca nelle punizioni e insomma la barriera dello Zaire sembra più la barriera di un gruppo di condannati a morte davanti al plotone di esecuzione. Sono momenti in cui è difficile mantenere la calma, forse si perde molta lucidità, troppa. Ero consapevole di cosa fosse scritto sul regolamento del calcio, ma ero stato infastidito dai commenti provocatori dei brasiliani. Allo stesso tempo volevo cogliere l'opportunità per venire espulso. Mi sono detto, non voglio giocare più. Perché devo stare in campo e rischiare di non tornare a casa, quando le persone che si sono prese i nostri soldi ci stanno guardando comodamente dagli spalti. Questa versione di Muepu è particolare, insomma lui racconta di aver calciato il pallone con l'intento di colpire il brasiliano Rivellino, che infatti viene sfiorato dal pallone. Se l'avesse colpito probabilmente l'arbitro avrebbe tirato fuori il cartellino rosso e per Muepu la partita sarebbe finita lì. È un momento di lucida follia, la ricerca di una scappatoia assurda, anche perché lui non solo non sarebbe stato esonerato dalle sue responsabilità, ma forse sarebbe stato giudicato il principale responsabile, perché metti che lui viene espulso e poi il Brasile fa altri 3 gol, tutti gli altri giocatori avrebbero detto è colpa sua che è stato espulso. Quindi in realtà la follia di chi non capisce nulla. Però succede che forse quel gesto spezza un po' la concentrazione dei brasiliani, che si mettono a ridere, forse ritirano un po' le armi, forse in qualche modo si deconcentrano. Possiamo anche azzardare l'ipotesi che Muepu, nel tentativo di salvare se stesso così maldestramente, abbia in qualche modo salvato l'intera squadra, abbia deviato il corso degli eventi. 3 sconfitte in 3 partite, lo Zaire torna a casa eliminato al primo turno, 0 punti, 14 gol subiti, una sconfitta disonorevole che il presidente Mobutu non apprezza i leopardi africani, che fino a quel momento erano stati l'orgoglio della loro nazione, si trovano di fronte a un muro che li isola totalmente. Vengono interrotti tutti gli aiuti economici alla nazionale, i giocatori vengono perseguitati in diverse occasioni, alcuni di loro muoiono senza un soldo nell'indifferenza generale, come il portiere Kazadi, e altri sono costretti alla fuga, si trasferiscono in Francia. Mwepu rimane al suo posto, vive una vita silenziosa e cerca di passare inosservato, come Moacir Barbosa, quello dei mondiali del Brasile del 50. Continua a lavorare nel mondo del calcio, si occupa di calcio giovanile. Forse quel suo gesto in qualche modo ha salvato la vita a lui e ai suoi compagni, però sicuramente a lui ha dato quel poco di notorietà internazionale che gli ha permesso di rimanere sotto i riflettori. È morto Mwepu l'8 maggio 2016, tutti i giornali lo hanno ricordato ancora una volta per quel suo gesto così strano, anomalo, sconsiderato, che comunque nascondeva una verità, la sua verità, e in ogni caso un tragico retroscena, quello del suo Zaire sotto una terribile dittatura. I colpi d'ala a volte possono andare non in alto o in basso, ma semplicemente nel teatro dell'assurdo. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei, sui nostri social, insomma, se mi cercate sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.